il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. L'11 novembre sarà la festa di San Martino, una data importante ogni anno storicamente per gli agricoltori e anche per chi si occupa di vino, la data nella quale si cominciano ad assaggiare i vini nuovi. Quest'anno sappiamo che è stata un'annata un po' particolare, ha piovuto molto, c'è stato qualche problema nel vino, così come per altri prodotti come l'olio, come il miele, sappiamo che ci sono stati dei problemi e anche produzioni in calo. Per sapere com'è andato nel vino, in particolar modo nell'area dei Colli Euganei, ma nel Veneto in generale, parliamo oggi con Giorgio Salvan, storico produttore appunto di Colli Euganei. Le sue impressioni su quest'annata 2014? Sì, effettivamente San Martino è una data importante, una volta era la data di inizio e termine dell'annata agraria, si facevano i nuovi contratti, c'erano i traslochi. Comunque di San Martino oggi vogliamo ricordare che a San Martino ogni mosto è vino. Cosa significa? Significa che si comincia ad incontrare non più l'uva, non più il mosto ribollente, ma si cominciano ad assaggiare i primi vini, si possono tirare un po' le somme. E cosa possiamo dire? Quest'anno, insomma, in questo momento ci troviamo con alcuni dati forse migliori delle previsioni di un mese e mezzo fa, altri sono purtroppo delle conferme. Se parliamo di vini bianchi, ecco che molti sono riusciti, lavorando bene, facendo le vendemmie accurate, selezionando per bene delle uve, sono riusciti a fare degli ottimi vini che hanno una bella freschezza, un buon profumo, e quindi va dato merito a questi bravi viticoltori che sono impegnati non solo in vigneto ma anche in cantina, ottenendo dei risultati molto apprezzabili. Per i vini rossi non sarà certo un'annata a ricordare, oppure sarà un'annata in cui la maggior parte dei vini ha qualche carenza di colore, cioè avremo dei vini snelli, dei vini verticali come era previsto, il colore c'è in alcune varietà, non so, i merlot raccolti verso il centro del mese di settembre sono in buone condizioni, il friularo che si raccoglie in vendemmia tardiva, molte partite non sono ancora state raccolte, ha pure un po' superato tutte queste difficoltà dovute all'eccesso di piovosità. Buone prestazioni le hanno fatto anche alcuni vini autoctoni che in alcune aziende si stanno sperimentando per vedere ritornare un po' a quella che è la nostra storia, sono vitigni presenti nella nostra zona già da qualche secolo, che hanno dimostrato anche quest'anno di riuscire ad affrontare la situazione in ottima forma. Comunque il vino che troveremo quest'anno sarà comunque un vino che avrà un suo carattere, e se lo incontriamo e teniamo conto della situazione in cui è nato, avremo sicuramente delle soddisfazioni anche nel berlo. Saranno vini che non andranno per una cucina pesante, per una cucina autunnale, ma andranno bene soprattutto per piatti freschi, primaverili, per antipasti. Quindi penso che non dovremmo tanto dare importanza al colore, no? Ricordiamo che un tempo si diceva che bisognava, come per l'olio, assaggiare il vino in un bicchiere nero addirittura per non essere influenzati dal colore. Sicuramente dal punto di vista dei profumi avremo qualche sorpresa positiva. Qualche grado in meno però su certi vini forse potrebbe anche essere positivo, ci stiamo abituando a vini dai 13, 12 gradi e mezzo, 13 in su, magari per la tavola basta anche di meno. Ma direi che forse può essere un'annata provvidenziale, perché ci fa riflettere sul fatto che non dobbiamo sempre fare vini di estrema concentrazione, con enorme estrazione, ma che forse il bevitore normale, il consumatore normale, l'enopassionato appassionato, da tempo stanno cercando dei vini che siano più bevibili, più amichevoli, che non ci obblighino a stare sull'attenti quando li beviamo, ecco, che siano dei vini, insomma, quotidiani. Dobbiamo dire che quando mi chiedono del vino, vuoi quello del lunedì al venerdì o dal sabato alla domenica, ecco, sono due tipologie diverse. Il vino cosiddetto importante, il vino di molto corpo, di molto estratto, ha spesso difficoltà per essere bevuto. non possiamo negare che spesso queste bottiglie importanti, buonissime, poi le dimentichiamo perché aspettiamo sempre l'occasione per berle. Forse avere a disposizione dei vini non banali, ma dei vini che siano curati, profumati, non eccessivamente alcolici, attorno ai 12 gradi, come sono i vini di quest'anno, può essere un aiuto a chi cerca semplicemente di bere un bicchiere di vino, mezzo bicchiere di vino a pasto, senza avere grossi problemi né dal punto di vista salutistico né dal punto di vista dell'incontro con chi poi deve controllare col palloncino o con altro strumento se è in grado di guidare, e anche non ultimo, diciamo, il portafoglio, che non è mai una cosa negativa. Quindi diciamo che secondo me l'annata, se la prendiamo nel giusto verso, può essere un'annata provvidenziale, perché ci farà pensare, a volte fare il punto, pensare per ripartire può essere utile. Benissimo, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Making you run and feel alright, and we'll feel alright, 'cause we'll work. eccoci di nuovo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di vino con Giorgio Salvan dell'omonima azienda agricola storico produttrice dei Colli Euganei, e stavamo parlando di quest'annata che in realtà sembra essere comunque un'annata non trascurabile rispetto a quelle che erano le previsioni nere di quest'estate. Stavamo anche parlando di un'annata che ci può far pensare magari meno gradazione, meno prodotto. Quello che cambia è anche il turismo. Oggi cerca anche persone, cerca prodotti tipici, ma anche di sapere chi li produce, e il vino è il prodotto enogastronomico per eccellenza insieme alla nostra cucina italiana. Come sta evolvendo? Siete pronti anche come produttori italiani a far conoscere un po', ad accogliere questi turisti? Allora, direi che il vino e il cibo sono sempre più una motivazione di viaggio. Dove informarsi? Ecco, bisogna chiaramente informarsi prima. La possibilità c'è, è enorme, in rete trovate tutte le informazioni necessarie. C'è tutto il sistema delle strade del vino, che c'è non solo in Italia ma anche all'estero, c'è il movimento turismo del vino che organizza cantine aperte ogni anno, cantine aperte che è diventata un'occasione plurima durante l'anno. C'è anche la possibilità di visitare i vigneti all'inizio della vendemmia, alla fine della vendemmia per San Martino fare la cena col produttore, l'assaggio dei nuovi vini, c'è tutta una serie di iniziative dei consorzi di tutela della produzione. E quindi prendendo in esame, andando un po' a studiare i siti di tutte queste cantine, noi possiamo poi trovare anche un mondo della ristorazione attenta al vino e attenta ai prodotti. Quindi c'è tutto il mondo dei prodotti locali. Cosa importante? Ecco, quando l'enoturista si muove per andare incontro al prodotto, al vino, ma anche i prodotti del territorio, certamente ha la possibilità di conoscere questi prodotti, di conoscere la storia e soprattutto di conoscere le persone che l'hanno prodotto, lo spirito delle persone con cui è stato prodotto ogni cosa, e quindi possono portare a casa non semplicemente una bottiglia ma un ricordo. Io spesso dico che noi non vendiamo più vino, vendiamo ricordi di viaggio, vendiamo emozioni, offriamo la possibilità di vivere delle emozioni. Certamente se volete godere al meglio queste opportunità cercate di avvertire prima di arrivare, troverete delle persone pronte ad accogliervi. Noi, come filosofia del gruppo di Strada del Vino, Movimento del Turismo del Vino e così via, vogliamo essere anche dei punti di informazione sul territorio. Ecco che se la vostra visita è preparata sicuramente vi fa godere molto di più e potete incontrare dei vini che non hanno la forza commerciale per arrivare fino a voi in qualsiasi parte, però potete avere il piacere della scoperta, incontrarli, portarli a casa, berli con gli amici, raccontare una storia, e sicuramente avrete un po' di felicità in più. Grazie. E passiamo adesso alle nostre notizie che concludono la trasmissione. Come prima, cogliamo il suggerimento di Giorgio Salvan e vi invitiamo a nostra volta a scoprire la proposta del Movimento Turismo del Vino Veneto per la manifestazione Cantine Aperte a San Martino. Trovate tutti i programmi sul sito internet www.mtvveneto.it. Qui si trova l'elenco delle proposte delle cantine, che sono una trentina in tutta la regione, che offrono degustazioni, visite guidate, presentazioni e piccoli eventi. È consigliabile prenotare. Ricordo il sito internet www.mtvveneto.it. Sono online i primi avvisi d'asta pubblica legati a Terre Vive, l'iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che prevede la vendita e l'affitto dei terreni demaniali improduttivi a privati e in particolare ai giovani, per favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura e la ricomposizione fondiaria. I primi bandi pubblicati riguardano 12 lotti e per ora non riguardano il Veneto ma Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Basilicata, Puglia e Sicilia. Il decreto riguarda però 5.500 ettari di terreno, di cui 2.480 appartenenti al demanio dello Stato, 2.148 ettari in uso al corpo forestale dello Stato e 882 di proprietà del Centro per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, CRA. Una quota minima del 20% di questi terreni è riservata all'affitto, anche in questo caso con preferenza all'imprenditoria giovanile agricola e con una durata della locazione non inferiore ai 15 anni. Informazioni e aggiornamenti sul sito internet www.agenziademanio.it. La Russia ha deciso di estendere il suo embargo sui prodotti agricoli europei anche a farine animali, grassi di bovini, suini e pollame e altri derivati di bovini e suini. Il pretesto è stato il rilevamento in 17 casi della presenza di sostanze vietate in derivati bovini provenienti da Italia, Austria, Ungheria, Germania, Danimarca e Polonia. Secondo le stime di Coldiretti, l'estensione dell'embargo costerà all'Italia altri 3,2 milioni di euro all'anno. Infine parliamo di Expo 2015, cominciano a filtrare le notizie su cosa vi sarà in mostra e si parte con l'Austria. In sintonia con il tema Nutrire il pianeta, energia per la vita, il padiglione austriaco sarà dedicato all'aria e al respiro. In 560 metri quadri di spazio espositivo assumeranno infatti le sembianze di un tipico bosco austriaco piantato all'interno del padiglione. Grazie ad alberi, arbusti, erbe aromatiche, frutti di bosco e frutti selvatici, sarà riprodotto il microclima di una foresta. Di conseguenza verrà prodotto ossigeno per 1800 visitatori l'ora. Il padiglione sarà quindi a impatto zero sul clima e autosufficiente dal punto di vista energetico grazie alla presenza di pannelli solari. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento al Quadrifoglio la prossima, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.